There's a little crash. I can't die, I'm falling in love. Do you wanna fake my pleasure, Brayshad? I'm a Brayshad! Do you wanna fake my pleasure? Do you wanna fake my pleasure, Brayshad? I wanna feel on you. We can be lost. I've been alone in a land that can be a bone. I know that keep me up. Thank you. Take me alive, let me know. scottano ogni fissa notte fuma. Perché il fuoco non e ma più cazzo tu no mozze o sun rai o i sappai di che verrai vuoi perché la mano li balla la zucca su una volta l'aiva mia manca perché vai vuoi stare l'hai confumala per se sul mahal si posta buon cocca. Oh, Thank you.